io te le gioco davvero. A me c'hai poco la roba di coglioni. Perché io ti dico una cosa. A me al baracchino mi piace scherzare. Io mi chiamo. Per andare più a fare il mio nome e cognome. Se sei bastardo tu, non sono bastardo io. Perché a tua a chi lo dice? Che ha fatto per 2000 volte. Hai capito? In via l'Italia tua madre me la chiamavo io. In via l'Italia. Non andarti più a fare nome e mio cognome. Ma tu qua, ma perché sei qua? Di persona. E ti sculavo Macon. Quando mi chiamava tua madre in via l'Italia. Ma tu sta preso male? Dentro il portone. Sta quello per salire a Montelepre. Quello bastone che venga a casa tua, eh! Vedi, io mi arrabbio, stronzo. Che ti hanno lasciato solo come un asino. Coglione!